Lo stabilimento di Via Freius 26 nasce nel 1905, voluto dai fratelli Diatto. Lo stabilimento ricopriva, oggi come allora, 25.000 metri quadri e fu progettato da Pietro Fenoglio, uno dei protagonisti del Liberty e dell'Art Nouveau torinese. Nel 1927 la proprietà passò alla società Snia Viscosa. Nel 1942 la fabbrica venne colpita da bombardamenti. Questo elemento risultò poi fondamentale nel corso del futuro dell'edificio per sottoporlo a speculazione. Finita la guerra, la fabbrica ebbe poi altre due proprietà, la SPA Veglio e l'Utita. La fabbrica fu sempre utilizzata comunque per lavorazioni meccaniche. Negli anni Ottanta la fabbrica chiuse definitivamente i battenti e fu acquisita dal Comune di Torino, che la utilizzò sia come deposito sia come uffici. Il Comune di Torino nel 2001 segnala alla soprintendenza la fabbrica come edificio di valore documentario. Pertanto nel 2007 la stessa soprintendenza dichiara il vincolo architettonico totale sulla fabbrica. Sempre nel 2007 il Comune di Torino trasferisce la proprietà al fondo immobiliare speculativo Città di Torino e vara la variante 154 al piano regolatore che rende l'area soggetta a trasformazioni urbane. Nel 2010 il vincolo di tutela sull'edificio è stato annullato e sostituito da uno meno restrittivo, sulla base di uno studio realizzato dagli architetti Mellano. La relazione posticipa ad arte l'edificazione di una parte della fabbrica, come ad esempio la famosa cisterna, in modo da giustificare l'eliminazione del vincolo architettonico. Sempre nel 2010, Prelios, in qualità di nuovo proprietario dell'area, ha affidato l'incarico di redigere il progetto di trasformazione allo stesso studio Mellano. Nel 2012 la Giunta Comunale approva il PEC, che prevede un centro commerciale, un parcheggio sotterraneo, un microparco di 30x35 metri quadrati, 250 alloggi e ovviamente l'abbattimento della fabbrica. Il progetto definitivo del 2012 non rappresenta una novità nel contesto torinese. La città, infatti, dalla metà degli anni 90 aveva visto numerose trasformazioni di questo tipo, ovvero abbattimento di vecchie fabbriche e costruzione di palazzi. Il progetto non trovò l'approvazione degli abitanti del quartiere, che subito si opposero alla sua realizzazione. Nel 2013, il 6 gennaio, avvenne l'occupazione della fabbrica per impedirne l'abbattimento, come era previsto dal progetto. Venne costituito anche un comitato e si organizzò la resistenza. Leggendo il progetto si comprese che tutta una serie di norme, soprattutto ambientali, non erano rispettate. Il problema, come in tutte le altre fabbriche torinesi ristrutturate in quegli anni, erano gli avanzi di produzione, gli idrocarburi abbandonati nel terreno, tutte le porcherie prodotte in 70 anni di fabbrica sul posto. Il progetto presentato nel 2012 non conteneva alcun accenno alla bonifica da realizzarsi. Il comitato decise di sollecitare l'ARPA e lo Spresal per le necessarie verifiche sulla bonifica da effettuare prima dell'edificazione di ogni nuovo edificio. Nacque così un contenzioso tra la società che vendeva Prelios e la società interessata all'acquisto, per chi dovesse effettuare le bonifiche. In questo modo il progetto venne bloccato, anche grazie alla resistenza che venne effettuata il giorno dello sgombero della Diatto, che avvenne il 5 giugno del 2013. A seguito del contenzioso e della crisi immobiliare, i lavori restarono bloccati per un lungo periodo. La città si interrogò su ciò che era successo. Pertanto il comune decise di modificare il progetto, anche seguendo le richieste del comitato, che effettuò anche uno studio distribuendo un questionario tra la popolazione. Il comune pertanto modificò il progetto. Il PEC, attualmente in vigore, è stato votato nel 2020 e prevede l'edificazione di uno studentato per 600 posti letto nell'unica area bonificata del cantiere, che si trova a ridosso tra le vie Moretta e Cesana. Al centro dell'area sorgerà invece un parco pubblico. Questo parco pubblico verrà costruito tombando con della terra riportata gli avanzi dell'abbattimento della fabbrica e quindi anche delle sostanze nocive e inquinanti che non sono state mai bonificate, appunto. L'area storica è ancora salvaguardata dal vincolo architettonico posto tra via Revello, via Freius e via Cesana, è stata invece riacquistata dal comune di Torino. Non sorgerà quindi più un supermercato, ma il comune ha promesso di trasformarla in un'area polivalente a disposizione della cittadinanza. Purtroppo, per adesso, non abbiamo ancora visto nessun finanziamento pubblico per ristrutturare quest'area, mentre invece i lavori sono ripresi a pieno ritmo nell'area in cui deve sorgere lo studentato. L'area, infatti, è stata infine venduta dal Fondo Immobiliare Città di Torino ai nuovi proprietari, la Stonehill, un'azienda anglo-olandese che si occupa di edificazioni di studentato in tutta Europa. È attiva infatti in Austria, in Ungheria, in Belgio, in Olanda, in Inghilterra ed ora anche in Italia, non solo a Torino ma anche a Bologna e Padova. L'operazione di costruzione è stata finanziata da un fondo immobiliare con 63 milioni di euro.